La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. In occasione dell'uscita nelle sale italiane del film di Giorgio Diritti, L'uomo che verrà, l'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'eccidio di Montesole, noto come Strage di Marzabotto. Ospite ai nostri microfoni Luca Baldissara, autore con Paolo Pezzino del volume Il Massacro, guerra ai civili a Montesole, edito da Il Mulino. Inverno 1943. Martina ha 8 anni, vive alle pendici del Monte Sole, non lontano da Bologna. È l'unica figlia di una famiglia di contadini che, come tante, fatica a sopravvivere. Anni prima ha perso un fratellino di pochi mesi e da allora ha smesso di parlare. Nel dicembre la mamma rimane nuovamente incinta. I mesi passano e Martina vive nell'attesa del bimbo che nascerà. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre del 1944 il piccolo viene finalmente alla luce. Quasi contemporaneamente le SS scatenano nella zona un rastrellamento senza precedenti, che passerà alla storia come la strage di Marzabotto. La mia famiglia sono contadini. Sono in pochi, ma adesso arriva un nuovo fratellino. Ogni tanto vengono sui tedeschi e io non so perché sono venuti fino a qui e non sono rimasti a casa loro con i loro bambini. Voi contadini avete la testa dura. E poi ci sono i ribelli che li fanno la guerra perché dicono che se ne devono andare. La rappresaglia condotta dalla 16ª divisione comandata da Bartel Reder si inquadra all'interno di un'operazione antipartigiana di bonifica del territorio e si estende all'intero Monte Sole. 770 vittime, tra cui 216 bambini, donne e anziani, massacrati in una delle più cruenti stragi di civili compiute nel nostro paese dopo l'8 settembre del 43. Il bel film L'uomo che verrà di Giorgio Diritti ci ripropone ora quelle drammatiche vicende viste dalla parte di chi la guerra la subisce, come osserva lo stesso regista. Gli eventi narrati nel film vogliono essere una testimonianza di grandissimo valore morale. Ci consegnano per immagini la sintesi del desiderio e del bisogno della solidarietà nelle convivenze umane e ci restituiscono il senso delle cose che contano, ridanno valore a una stretta di mano, ad uno sguardo, ad una preghiera. Tutto questo è schiacciato, represso, ma anche valorizzato nella contrapposizione alla crudeltà delle SS. Narrare in un film i fatti di Marzabotto significa mantenere vive e vigili le coscienze degli uomini e anche educare le presenti e le future generazioni affinché un domani un'altra ideologia non trasformi il senso della vita annientando le coscienze. In realtà, come documenta il libro Il Massacro, guerra ai civili a Montesole, scritto per Il Mulino da Luca Baldissara e Paolo Pezzino, la strage di Marzabotto è l'insieme di singoli episodi di violenza contro civili inermi che si consumano in 115 luoghi diversi, distribuiti nel territorio di 3 comuni. A sud di Bologna, Marzabotto, Grizzana, Monzuno, sovrastati dalle alture del Monte Sole. Non si trattò dell'incursione in paese di un reparto tedesco con l'intenzione di attuare un'azione punitiva contro i suoi abitanti e distruggerlo. Si trattò invece di un'operazione pianificata dal comando tedesco nel quadro di una politica del massacro e della terra bruciata. Una guerra praticata per sradicare il fenomeno partigiano attraverso la devastazione del territorio, l'attacco ai civili, la distruzione delle condizioni ambientali, fisiche e umane che consentivano ai partigiani di organizzarsi e agire. Una strage attuata con determinazione, progettata come un'operazione militare in piena regola, non solo nelle modalità di esecuzione secondo i canoni tattici del rastrellamento, ma anche negli obiettivi. Lo sterminio dei civili e la devastazione del territorio costituivano infatti un sistema ben collaudato, come avvenne per altri massacri messi in atto dalla 16ª divisione SS a Sant'Anna di Stazzema e Vinca per debellare la presenza partigiana. Ecco una cosa che ho capito, che molti vogliono ammazzare qualcun altro, ma non capisco perché. Sai, El Martina. Abbiamo in linea il professor Luca Baldissara che insieme a Paolo Pezzino ha scritto il libro Il Massacro, guerra ai civili a Montesole per Il Mulino. A quali conclusioni ha condotto la vostra minuziosissima ricerca sul massacro di Montesole? Le conclusioni conclusioni sono molte, direi che probabilmente la più significativa è che la strage di Montesole è una strage che si inserisce all'interno di un programma pianificato di massacri e di stragi che i comandi tedeschi compiono in Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, di cui Montesole è un po' l'apice, diciamo, anche per la quantità e il numero dei morti, 770, ma che si inserisce all'interno di una strategia più complessiva che i comandi tedeschi seguono in Italia, che è quella della terra bruciata, della politica del massacro. E a lungo, professore, si è discusso sul numero delle vittime, ma perché c'è stato questo balletto delle cifre? In realtà questo balletto è generato da un equivoco, nel senso che nel 1947 al comune di Mazzabotto venne assegnata la medaglia d'oro al valor militare, e le motivazioni dell'assegnazione della medaglia riportavano una cifra di 1830 vittime, che però riguardavano non solo le vittime della strage, ma riguardavano complessivamente tutte le vittime per cause di guerra nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Da allora in poi però questa cifra è in una qualche maniera divenuta la cifra base, quella a cui tutti hanno fatto riferimento, per uno slittamento, diciamo così, in alcuni casi volontario, in altri anche involontario e consapevole, e sono state identificate le due cifre come l'una a coprire l'altra. In realtà, appunto, studi e ricerche più recenti e confermate anche dalle nostre indagini hanno confermato che il numero complessivo, che dovrebbe essere ormai quello definitivo, è di 770 vittime uccise non in un solo episodio di strage, ma in una serie di episodi di eccidi, massacri, uccisioni sparse sul territorio, come anche il film L'uomo che verrà di Giorgio Diritti dimostra e manifesta molto bene. La vicenda processuale del maggiore dell'SS, Walter Reder, che è il responsabile del massacro, ecco, è una vicenda che ha un suo interesse anche per la conclusione, professore, di cui voi date ben conto nel libro. La vicenda del processo è una vicenda che ha luogo nel 1951 e in cui i giudici militari italiani che sottoporranno a giudizio Walter Reder, che era il comandante di una delle principali unità, non l'unica peraltro, che si macchia di questo massacro, verrà sottoposto a giudizio e verrà in una qualche maniera identificato come il responsabile unico, e verrà condannato all'ergastolo e verrà poi liberato dal governo Craxi nel 1985, rimanendo dunque in carcere per oltre 30 anni, ma essendo l'unico di coloro che furono presenti a Montesole in quei giorni a essere effettivamente punito e a pagare per quelle responsabilità. Fino a quando la Procura Militare di La Spezia nel 2006 non fa un nuovo processo grazie ai fascicoli conservati nel famoso armadio della vergogna, e in realtà condurrà all'ergastolo, alla condanna all'ergastolo di oltre una decina di sottufficiali e soldati di truppa che erano presenti a Montesole in quel settembre del 1944. In cosa si differenzia, professore, la strage di Mazzabotto, se c'è una differenza, rispetto alle altre stragi, appunto, compiute dai nazifascisti in Italia dopo l'8 settembre del 43, di cui siamo venuti a conoscenza, appunto, grazie ai fascicoli dell'armadio della vergogna? Ma in realtà la strage di Montesole è una strage che per certi aspetti è simile ad altre stragi che si compiono in Italia, alle numerose stragi, perché saranno oltre 15.000 le vittime in Italia per episodi e massacri come quello di Montesole, di Sant'Anna di Stazzema, di Vinca, di Bardine San Terenzo e decine di altri. È una strage che per certi aspetti è simile ad altre, per l'appunto ad esempio quella di Vinca, che viene compiuta dallo stesso reparto con le stesse modalità circa un mese prima di Montesole, e per certi aspetti rappresenta appunto un modo che i tedeschi hanno di fare la guerra in Italia, di occupare e garantire la sicurezza di territori dalla presenza partigiana, non già combattendo i partigiani, ma in realtà completamente distruggendo un territorio, applicando quella che prima chiamavo la politica della terra bruciata e del massacro, facendo sì cioè che in quel territorio non vi siano le condizioni per una guerriglia partigiana e neppure, diciamo, alcuna condizione di vita, rendendo quei territori delle vere e proprie terre di nessuno. Anche a Montesole succede questo. Quello che di diverso c'è a Montesole probabilmente è intanto l'intensità e la quantità della strage, non solo nel numero delle vittime, 770, che ne fa la strage con il maggior numero di vittime in tutto il fronte occidentale, e anche per l'intensità della violenza. Vi è un di più di sadismo e di crudeltà applicata in questa strage che probabilmente la rende una sorta di paradigma di questa politica del massacro che i nazisti compiono in Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Tutti noi siamo quello che ci hanno insegnato ad essere.